Eh sì, sofferenza tanta, infatti sono ancora un po' provata, però è una grande soddisfazione, insomma, dopo aver sofferto siamo arrivate bene alla fine. Gigli protagonista, tante parate per bloccare questi attaccanti cinesi che veramente non mollavano mai. Un po' a tratti, diciamo che sono partita un po' incerta, però poi per fortuna alla fine ho preso sicurezza e ho dato sicurezza anche alle mie compagne. Adesso la Grecia, come si prepara questa partita alla luce di questo successo importante per la storia di questa squadra? È importante anche per il nostro morale e senz'altro la Grecia è una partita più abbordabile di una con gli Stati Uniti, per cui siamo positive, è un avversario da non sottovalutare e ci prepareremo al meglio.